Kramer, Dixenakis è una delle sue composizioni più importanti, è del 1969, è un pezzo per orchestra e nastro elettronico a quattro piste. Non sono nuovo alla musica di Xenakis, questa è la mia, credo, quinta produzione sulla musica di Xenakis dal 2008 a questa parte. Il progetto per il Comunale è particolare perché si è deciso di realizzarlo creando un progetto per la gente della città e quindi di fatto questa produzione porta sul palcoscenico del Teatro Comunale una grande massa di persone, circa un centinaio, formata da diverse associazioni della città e quindi non professionisti, gente che comunque si è avvicinata al teatro perché sono i giovani della scuola Galante Garrone e anche altre associazioni che si avvicinano alla danza, al teatro in modo amatoriale. Questa è la singolarità di questa produzione. È una massa di persone non professioniste che si trovano a creare qualcosa di assai complesso in realtà dal punto di vista coreografico e registico, ed era proprio questa la sfida di questo progetto, e anche diciamo, il progetto stesso, cioè di portare una massa di cittadini a confrontarsi con un capolavoro del XX secolo e a fare qualche cosa che non avevano mai fatto, qualcosa di straordinario. Questo in realtà è il cuore del progetto. Tengo però ad aggiungere che ci sono inoltre due danzatrici di livello che fanno parte di questo grande coro, chiamiamo, Alicia Raffaelli, che è una bravissima danzatrice italiana, e Yiling Liu, che è una grande danzatrice taiwanese che ha lavorato con me a New York prima di questa produzione. Il progetto, appunto, porta sulla scena questa grande massa e anche l'orchestra, che non è in buca ma è sul palcoscenico. Questo è consentito dal fatto che l'orchestra è amplificata leggermente per poter suonare assieme al nastro che invece è nella sala. Quindi questo ha consentito appunto anche questa posizione d'orchestra inusuale rispetto a quello che è l'abitudine. Kranerg nasce nel 69 in reazione, in un certo senso, ai movimenti studenteschi del 68, in particolare quelli di Parigi dove Xenakis viveva. E quindi il progetto per il Comunale nasce anche agganciandosi al cinquantenario del 68. Detto questo, però, non volevo creare una situazione registica e coreografica che fosse basata sull'aneddoto, questo non mi interessa. Qui il progetto invece è di trovare più che altro delle forme archetipali, diciamo coreografiche, che esprimano l'idea di conflitto che è alla base di Kraner.